Buongiorno Chiesa, che bello averci. Avete la stessa gioia? Anche se addormentati, non fa niente. Perché anche quando ti alzi la mattina e vedi tua moglie, tuo marito con gli occhi gonfi, sei lo stesso felice. Già per il fatto che ti sei alzato. Allora, quindi anche in questo, questa mattina, il soggetto che andiamo a percorrere insieme è in pratica qualcosa di, è un gioco di parole, di molto pratico per me. È quella domanda che io, almeno io, periodicamente, non voglio dire un giorno sì e un giorno no, ma abbastanza periodicamente mi pongo. Ed è: ma perché a me il Signore non parla? Chi non se l'ha mai posto può lanciare una pietra. Ma siccome non ce ne sono, andiamo bene. Voi credete che il Signore a me non parla? No, no. E perciò pure io non credo che il Signore a te non parla. Va bene? Quindi il Signore chiama e parla in maniera incredibile. Anzi, vi dirò di più, permettetemi e lasciatemi passare questa terminologia. Il Signore è chiacchierone. Al Signore piace molto, molto, molto comunicare con noi. E parla, e parla, e parla. L'orecchio dov'è? Questo è il punto. Ma il Signore ci chiama costantemente. Io vi voglio leggere un passo che toglie anche tutti i dubbi in questo. Vedete che cosa dice il Signore di noi. È scritto in Isaia, lo conosciamo molto bene, Isaia al capitolo 43, solo il verso 1, se viene lo leggiamo insieme. Isaia 43 dice: ma ora così che fa? Parla, parla. Il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele, o Chiesa, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Amen. Il Signore ti ha chiamato per nome, conosce i nostri nomi, uno ad uno. Ma come lo fa? Quando lo fa? Che cosa dice quando ci parla? Questo, ecco, cercheremo di vedere. Dice: ma si capisce. Vedete, l'esempio il più classico che c'è: se adesso da dietro entrasse un bambino che sta nel suo incontro e gridasse mamma, quante mamme ci sono qui? Posso vedere? No, io non sono mamma, non sono papà. Vedete quante mamme ci sono? Vi alzereste tutti? Tutte? Si alzerebbe solo la mamma. E come fa? Incredibile, riconosce la voce, l'intonazione e sa anche che cosa vuole dal semplice dire mamma. Si comprende. Perché questo? Perché accade questo? Semplicemente perché i due si conoscono. Tu conosci bene la voce dell'altro, tu conosci bene l'intonazione dell'altro, tu conosci tuo figlio e il figlio conosce la mamma. È una cosa incredibile, anzi questo dobbiamo dire accade anche fra marito e moglie, se vogliamo. È vero, adesso noi non si usa più nell'ultimo tempo chiamarsi per nome, o non si usano più nemmeno quei vezzeggiativi tipo micino, gattino e che ne so io. No, adesso qual è il termine con cui chiami tua moglie e tuo marito? Amò, amò. E a secondo della intonazione di queste tre lettere tu capisci esattamente che cosa sta dicendo tua moglie. Giri e vai nella stanza facendo finta di non aver sentito, specialmente quando ti chiama Amò, che la A non si sente nemmeno, e dire Mo. Amò. Lo comprendiamo dal tipo di parole. E allora, la stessa maniera, la stessa identica maniera usa Dio nei nostri confronti. È incredibile, ma il Signore usa questa stessa maniera per parlarci, per dirci. Allora, ma come si fa a sentire e a capire la voce di Dio? C'è solo un modo, non esiste un altro modo. Conoscersi, conoscersi. Non c'è un altro modo, non c'è un modo miracoloso e non c'è una persona o delle orecchie speciali per poter sentire quello quando il Signore chiama e quando il Signore o quello che il Signore ci dice. Ci vuole una sola cosa: stare insieme. Stare il più possibile insieme. Spendi il tuo tempo con il Signore. Non è bisogno che per ogni volta e sempre ti devi appartare nella tua cameretta. Dovunque sei, qualsiasi cosa che stai facendo, o con i pensieri, o con le parole, o con l'azione, stai con il Signore. Usa qualsiasi metodo, non c'è un metodo. La preghiera in ginocchio, va tutto molto bene. L'importante è stare con il tuo Dio e allora impari a riconoscere la sua voce, quello che lui dice, quello che lui chiama. Ora, come ci chiama e cosa dice, questo vogliamo vedere adesso, il Signore a noi, a ognuno di noi individualmente, perché dice anche una cosa diversa a ognuno di noi. Come lo faremo? Da parte mia io credo che lo andiamo a studiare in una maniera unica, speciale, mai usato. Prenderemo alcuni personaggi della Bibbia, e tre personaggi, il numero tre è perfetto, e le loro storie, va bene? Non ditemi niente, non dite niente, va bene? Non dite niente. Io userò sempre questo metodo, sapete perché? Perché per me è molto più facile capire una storia o un personaggio, quello che lui vive, come lo ha vissuto, come si è risolta la situazione. Quando leggi la Bibbia, e qualche volta, non sempre, non capita solo a me, non sempre comprendo, facciamo anche semplici esempi, per esempio in Giovanni 7, quando Gesù dice ai suoi apostoli, io sono come gli apostoli, e dice a loro... Un po' sto ancora con voi, fra un altro po' non ci sarò più, però dove vado io, voi non potete venire. Gli apostoli si sono guardati in faccia l'uno all'altro e dice, ma questo che cosa vuole dire? E lui, ed è scritto proprio letteralmente, ma dice, ma che cosa ha voluto dire? Com'è che noi non possiamo andare dove lui va e non possiamo fare quello che lui va? L'abbiamo fatto per 3 anni? Ma non lo possiamo fare più? Non so, però quando io leggo, permettetemi, quando io leggo di Tommaso, che dice due parole, io lo capisco subito, quando dice, se non metto il dito, io non credo. Io là ho capito, Tommaso, quello che vuole dire. Vedete, allora, con le storie, con i personaggi che dicono, e fanno e agiscono, è molto più facile interreagire, imitare e fare semmai la stessa cosa nel limite possibile. Ora perciò noi vedremo alcuni personaggi, come il Signore ha chiamato loro, come gli ha parlato e che cosa ha detto loro. Io dico semplicemente, il mio obiettivo, oltre a comunicarvi quello che il Signore ha messo nel mio cuore e la sua parola che ci vuole indicare questo, il mio obiettivo è farvi innamorare dei personaggi della Bibbia. affinché, con uno scopo ben specifico, non seguite i personaggi delle telenovele. Intrighi, divorzi, matrimoni, quel si è messo con quel con quell'altro, che non sono imitabili, che non sono imitabili, che non sono da copiare. Beh, perciò passiamo subito all'azione e vediamo il primo personaggio, Adamo. In Genesi, al capitolo 3, il verso 9, è scritto: poi il Signore che fece? Chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Come chiama Dio in questa situazione? Come ha detto? Che ne so io, come noi ce lo immaginiamo, Adamo. Non ti chiama così, è inutile che metti l'orecchio per sentire la voce d'oltretomba. Ha chiamato Adamo con una domanda. Dio ci chiama, mi chiama, ti chiama, ci parla, mi parla con domande. Con domande. Domande che vengono direttamente. Quante volte hai sentito una domanda nella tua testa? Quante volte hai sentito una domanda dentro di te? Dove sei? Che stai facendo? Dove stai andando? Non hai mai sentito queste domande? E come che le abbiamo sentite? Che cosa facciamo? Come Adamo, ci nascondiamo. Dio chiama con domande ben specifiche, domande molto semplici che tu senti dentro di te. È Dio, è inutile che stai a trovare giustifiche e a dire: ma sarà il Signore, sarà la mia immaginazione, sarà la mia idea. È Dio che ti sta parlando. Se ricevi in quella determinata e specifica situazione una domanda dentro di te, sappi che Dio ti sta chiamando, sappi che Dio ti sta parlando. Che cosa fai? Come reagisci a quella domanda di Dio? Adamo, come ha reagito? Come ha reagito Adamo? L'abbiamo detto prima. Oh! E se no, sempre che state... Lo so che date l'impressione di essere così presi da quello che stiamo dicendo, però l'impressione da qui è più che stiamo dormendo ad occhi aperti. Si è nascosto. Si è nascosto. Dove si, dietro a che cosa? Dove si è nascosto Adamo? Alcune settimane fa, non mi ricordo se era di mattina o di sera, il nostro speciale ministro Stefano ha illustrato in una maniera spettacolare che cosa vuol dire, parlava della comunione, del contatto, della comunicazione marito-moglie, vi ricordate? E che Adamo si è nascosto dietro a foglie di fico e ci ha illustrato molto bene quanto doloroso può essere nascondersi dietro a foglie di fico. Ma io voglio vedere un altro aspetto, sempre delle foglie di fico. Oltre che essere dolorose, non nascondono per niente. Quando noi ci rifugiamo nei nostri divertimenti, nei nostri relax, forse non sempre nella volontà di Dio, quando noi ci rifugiamo nei nostri pensieri non sempre puri, non nascondono da niente, perché la foglia di fico, e questo è simbolo, non per niente è stata scelta la foglia di fico, perché io credo perché è grande e sembra nasconderti facilmente, però c'ha un altro difetto: appena la togli si accartoccia subito. E quindi lascia la mia, la tua nudità, il mio, il tuo vuoto dentro. Puoi cercare quando vuoi e come vuoi di nasconderti da Dio, dietro divertimento, dietro atteggiamenti non proprio buoni, dietro cose che al momento sembrano di dare piena soddisfazione al tuo, al mio desiderio, ma poi ti lasciano ignudo, ti lasciano vuoto. Ecco perché, ecco, un'altra cosa che ci possiamo chiedere è: ma perché Dio ha detto ad Adamo dove sei? Cioè, possibile che Dio non sapeva dove era Adamo? Certo che lo sapeva, è Dio, altrimenti non è Dio. Ma perché lo ha cercato? Per un solo e semplice motivo, fratelli e sorelle: Dio è interessato a te, è interessato alle più piccole delle tue cose. Non è così che Dio si interessa solo quando abbiamo una grossa malattia, quando abbiamo un grosso problema, no, anche del tuo starnuto, anche del tuo pensiero fugace. Il Signore è interessato a te come era interessato ad Adamo. Ma Adamo, e questa è anche una domanda anche per noi, dove si trovava? Dove si trovava Adamo? Potete alzare la voce. Nel paradiso, nel giardino, cioè nel luogo che Dio aveva preparato per lui. Tu puoi trovarti anche nel luogo che Dio ha preparato per te, eppure il più delle volte cerchiamo un nascondiglio. Anche quando luogo preparato da Dio per noi può essere mentre stiamo pregando, mentre stiamo servendo, mentre stiamo operando per il Signore, mentre stiamo leggendo, qualsiasi cosa noi stiamo facendo nel luogo che Dio ha preparato per noi, il più delle volte o alcune volte noi cerchiamo un nascondiglio. Ed è questo che noi dobbiamo cercare di comprendere perché noi cerchiamo sempre di nasconderci. E dietro a che cosa ci nasconde? Ci nascondiamo? Queste sono le domande che ci dobbiamo porre. Dietro a che cosa ti stai nascondendo in quella situazione che stai vivendo? In che cosa ti stai rifugiando in quella situazione che stai vivendo? Qual è il tuo perno, il tuo appoggio, il tuo bastone nella situazione che stai vivendo? Quello è un nascondiglio. E l'esempio più classico è sempre del bambino. Come si nasconde il bambino? Chiude gli occhi. Vedi le mamme con i bambini piccoli? Chiude gli occhi. E poi allora Dio deve stare lì a dire e a giocare con me. E dov'è il mio birichino? Non lo vedo. E come mai non lo vedo? Dov'è andato? Ed io devo giocare con me. Ma smettiamola di cercare questi nascondigli e prendiamo la via che il Signore mette dinanzi a noi. Anzi, dirò di più. Non nascondiamoci da Dio, nascondiamoci in Dio. Come ci si nasconda in Dio? Cercandolo in tutti i modi, in tutte le maniere. Non c'è un metodo, non c'è un modo che è meglio dell'altro, è semplicemente cercarlo in tutte le nostre situazioni. Invece di trovare le tue soluzioni, invece di trovare i tuoi appoggi, le tue forze e tutto quanto hai, cerca il Signore, perché lui veramente si lascia trovare. Quindi cerchiamo il nascondio di Dio. Se tu scopri anche durante questa mattina, semplicemente adesso, nella riflessione che potrai avere dopo, che hai dei nascondigli nelle tue situazioni, scrivili, scrivi anche una semplice parola. Ti ricorderà che devi uscire fuori da quel nascondiglio. Ti ricorderà che tu devi superare e vincere quella cosa. Ma adesso passiamo a un'altra maniera, a un altro modo, un altro esempio. E questo è Mosè. Qui c'è un altro bellissimo esempio. Perché no, voglio ancora dire una cosa riguardo a questo. Quando noi ci rifugiamo in quello che è il nostro modo di pensare e di essere, la parola di Dio dice in Matteo 6, al verso 21, dice, e questo è molto sintomatico e significativo per noi, la parola di Dio dice, ascoltate bene, poi andatelo a leggere, dov'è il tuo tesoro? Là è il tuo cuore. Qual è il tesoro nascondiglio? Chiamalo come vuoi. Dove ti stai aggrappando? Là è il tuo cuore. E poi io dico, ma perché a me il Signore non parla? Il Signore parla. E il Signore chiama in una maniera incredibile. Ecco, andiamo a vedere adesso Mosè, leggiamo in Esodo, anche qui il Signore parla a Mosè, chiama Mosè, al capitolo Esodo capitolo 3, il verso 4 e 5 è scritto, il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere, allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse, Mosè, Mosè, ed egli rispose, eccomi. Dio disse, non ti avvicinare qua. Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Come ha chiamato in questo caso Mosè? Come ha parlato a Mosè? Mentre abbiamo visto con Adamo l'ha fatto con una domanda, qui lo fa con un comando. Qui sta comandando a Mosè. E che cosa gli sta dicendo? Gli sta dicendo semplicemente togliti i calzari. Togliti i calzari. Ora, togliere nella parola di Dio vuol dire lasciare dietro. Vuol dire separarsi. Vuol dire uscire fuori. Questo è il significato di togliere. E la parola di Dio parla molte volte a noi di lasciare. Che cosa? Tu lo sai. Di togliere. Che cosa? Tu lo sai. Di uscire. Tu lo sai da dove. Non c'è bisogno che andiamo a fare. Ognuno di noi sa esattamente dove si trova e quello che sta facendo. Ma che cosa? I calzari. I calzari era un simbolo dell'Antico Testamento fino a Gesù. Quando entravi in una casa ti dovevi togliere i calzari e il padrone di casa ti lavava i piedi. Dovevi togliere i calzari perché? Perché i calzari sono il simbolo o sono, come dire, sì, il simbolo del mio obiettivo, del mio fare, del mio essere. Infatti, in Efesini al capitolo 6, credo verso 11-12, è scritto «E calzate i calzari che dà la prontezza dell'Evangelo della pace». Calza quei calzari! Ma ancora di più, la Bibbia illustra in maniera ancora più forte che cosa vuol dire i calzari. Per esempio, quando il Signore Dio istituì la Pasqua, quando il popolo di Israele doveva uscire dall'Egitto, dovevano mangiare l'agnello come? Stiamo dicendo. Non è che è molto difficile rispondere. Con i calzari ai piedi. Perché? Qual è il significato? Il significato era semplicemente sii pronto. Sii pronto alla chiamata del Signore, sii pronto ad ascoltare la sua voce, sii pronto quando ti dice qualcosa. Ma ancora di più, ci sono altri esempi dei calzari nella Bibbia. Per esempio, il figlio il prodigo. Quando il figlio il prodigo ritornò, andatela a leggere, sapete quale fu la prima cosa che il padre fece? Ordine che dette? Mettetegli dei calzari. Rientrare nel proprio cammino, quello che Dio ha preparato. Rientra in quello che Dio ha preparato in te, per te e in te. Rientra vuol dire riappropriati, rifallo, non ti sentire in colpa perché lo hai lasciato, perché non hai dato ascolto. Il Signore richiama e dice fallo, perché Lui continua a chiamarci e a parlarci fino a quando noi non realizziamo. Ma Ancora di più, ci sono altri esempi, vediamo. Sì, il popolo di Israele nel deserto è stato 40 anni. Che cosa è successo dei loro calzari? Non si sono consumati. Che significato ha? Che il Signore provvede anche nelle situazioni più tristi e più difficili. Il Signore è con te e non permette che il tuo piede vacilli e non permette che i tuoi calzari si consumano, perché Lui sta con te. Vedete quando ancora più, cioè anche per esempio c'è un altro esempio anche molto forte, Giovanni Battista. Ora, noi tutti imitiamo e prendiamo ad esempio Giovanni Battista, ma la frase che lui disse, sapete quale fu? Io non sono degno di allacciargli i suoi calzari. Che cosa voleva dire questo? Che quello che io faccio non è niente rispetto a quello che il Signore fa nella nostra vita. Perciò sii sempre, sempre riconoscente. Qualsiasi cosa stai vivendo, sii riconoscente, perché il Signore è lì. Vedete, e se andate a cercare, ci sono mille altri esempi di che cosa sono i calzari. E perciò comandò a Mosè, togliti i calzari, spogliati del tuo. Di che cosa, per esempio, se prendiamo in esame proprio Mosè, di che cosa si doveva spogliare Mosè? Secondo voi, forza. Per esempio, del suo io. Perché? Perché era figlio della figlia di Faraone. Del suo io soffare. Quando ha scoperto che era ebreo e non egizio, visto che maltrattavano il suo popolo, ha ucciso un uomo. Io so fare. Il Signore dice a Mosè, togliti i calzari. In questo senso, che cosa dice a me, che cosa dice a te il Signore? Che cosa devi togliere, che cosa devo togliere? Perché noi dobbiamo togliere. Quanto tempo era davanti al pruno ardente? Lo sappiamo, conosciamo la storia. Se non l'abbiamo letta, abbiamo visto i 10 comandamenti o cose del genere, quindi il film, conosciamo. Era davanti al pruno ardente e il Signore gli dice togliti i calzari. Quanto tempo, secondo voi, ci ha messo per togliere quei calzari? Quarant'anni. Ci ha impiegato 40 anni per togliere quei calzari. Ha fatto il pastore, ha fatto il genero, ha fatto tante cose. E alla fine di quei 40 anni ha potuto incontrare Dio nel pruno ardente. E poi, se andate a leggere nel verso 11, sempre di Esodo, al capitolo 3, vedete che poi c'è scritto, quando il Signore dice, va da Faraone, sapete che cosa risponde Mosè? Risponde, chi sono io che posso andare da Faraone? Incredibile! Ecco, lì vedi che lui si è tolto quei calzari, che ha tolto l'orgoglio dalla sua vita, o la disubbidienza, o come la vogliamo chiamare. Quando ci mettiamo noi a togliere i nostri calzari? Non spero. I nostri giovani per sposare ci mettono 40 anni, ma per piacere, io lo supplico veramente nel Signore, non, quando scopri qualcosa che devi togliere, lotta, aggrappati al Signore, vai a Lui e fai in modo di toglierlo immediatamente, perché lì si apre l'autostrada di Dio per te, per me. Lì il Signore può operare oltre quello che noi possiamo essere fare. I nostri calzari, il nascondiglio forse, ecco, è meglio usare di nuovo quell'esempio. Il nascondiglio più utilizzato da noi, i nostri calzari da cui spesso non ci vogliamo separare, sapete qual è? La nostra caratterialità. Qual è la frase che diciamo più spesso? Sono fatto così. Sono fatto così. E il Signore che dice? E mo è ora che cambi. Cambia. Non è sono fatto così, non è. Quello è un nascondiglio, sono fatto così. Perché ci mettiamo dietro a quello schermo per dire non posso fare, non posso dire perché io sono così. No, il Signore dice non sei così, perché io sono andato alla croce per te, per portare proprio questo sulla croce, per metterti di cambiare totalmente quella caratterialità. Dobbiamo un poco accelerare per andare verso la conclusione. Perciò scopri, riconosci atteggiamenti e sentimenti e modi di sentire, modi di pensare che ti separano da Dio. Vedete, quando fu chiesto al Signore Gesù, qual è il grande comandamento? Il Signore rispose, ama il Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e gli altri come te stesso. Questo sapete che cosa vuol dire? Che quando noi indossiamo quei calzari, quando noi cerchiamo quei nascondigli, noi ci separiamo da Dio e anche dagli altri e viviamo la solitudine spesso interiore, non quella esteriore, perché quello forse non riusciamo a vederlo. Allora, Togli qualsiasi cosa, ma io non ce la faccio, chiedi aiuto, caccia i denti fuori, fai quello che vuoi, facciamo quello che vogliamo, non c'è, lo torno a ripetere, un metodo, c'è solo il nostro cercare il Signore e anche il fratello per poter vincere e uscirne fuori. Un altro aspetto ultimo e terminiamo in pochi minuti, un altro esempio, Pietro, leggiamo da Matteo capitolo 16, quando Gesù chiamò i suoi discepoli e chiese loro, chi dicono, anche con una domanda qua, chi dicono gli altri che io sia? E qui poi Pietro risponde, dice, Gesù replicando gli disse, tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Credo che manca c'è proprio scritto quando dice perché non carne e sangue ti hanno rivelato. Chiama Pietro per mostrare qualcosa. Quando Pietro ha dato una risposta, lo ha chiamato e ha detto: non la tua intelligenza, non il tuo saper fare ti ha mostrato questo, ma il Padre mio, lo Spirito Santo. Perciò le rivelazioni di Dio, perciò le parole profetiche da parte del Signore, non le sottovalutare. Prendile, conservalo e mettile nel cassetto, semmai per un tempo, perché per ogni cosa c'è il suo tempo ed è il tempo di Dio. Ma non le scartare, perché è rivelazione di Dio. Dio rivela, sì, con parole profetiche, sì, con in tanti modi. Per esempio, facciamo un esempio, Paolo, se voi andate a leggere le lettere di Paolo, sapete qual era il suo modo di parlare? Non era tanto, una volta l'ha detto, il Signore mi è apparso e sono andato fino al settimo cielo, così va bene. Però generalmente, quando doveva visitare, quando doveva dire qualcosa, quando doveva comunicare, sapete qual era la terminologia di Paolo? Paolo diceva: ho avuto nel cuore di venire, ho avuto nel cuore. Quella è rivelazione del Signore. Quella è rivelazione del Signore. Qualche altra volta ha detto a Timoteo: ho pensato. Lo dice con altri termini, ma il senso è questo: ho pensato. Quella è rivelazione del Signore. In un altro caso ha detto addirittura: ho sognato. Il Macedone, vi ricordate? Il Macedone. È in funzione di queste parole rivelatrici Paolo ha preso delle decisioni e ha agito. E ha agito. Quando il Signore parla anche attraverso un fratello, anzi, più è il fratello che non puoi vedere e più è il Signore che parla. Va bene? Sottolinea questo. Allora tienilo ben a mente, perché lì il Signore vuole realizzare cose grandi e belle per te. Paolo lo ha fatto in una maniera molto semplice. Il Signore parla a noi in maniera molto semplice, non da aspettare che ti deve apparire la luce, che ne so io, il Signore ti deve parlare con trombe o con una voce sovraumana o che ne so io, con la voce robotica. Il Signore parla semplice, ma molto molto chiaro, e fa comprendere quello che vuoi. Il Signore parla, chiama e fa capire quello che noi vogliamo. La decisione è a noi di realizzare. Perciò, in conclusione, abbiamo visto che il Signore ci parla e ci chiama per mezzo Adamo, di una domanda. Ricevi domande dentro di te? Sì, è il Signore. Il Signore ci parla, Mosè, per mezzo di un comando. Ricevi comando, non fare, non andare. Certo che lo riceviamo. È il Signore che sta parlando. Il Signore parla attraverso rivelazioni. E allora ascolta e prende in considerazione, perché lì è la realizzazione del piano di Dio per te e per me. Amen? Amen. Vogliamo alzarci in piedi e ringraziare il Signore. Padre, vogliamo dirti grazie che tu continui a parlare e a dire ai nostri cuori, e continua a farlo oggi e continua a farli nei giorni a venire, come hai fatto con la sorella Gianna nel far vedere un passo della tua parola e da lì prendere un atteggiamento. Signore, benediciamo ognuno nel nome tuo potente. Grazie Gesù. Amen. Amen.